Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccomi qua, Obiettivo Salute con voi sino alle 11, mentre voi vi mettete comode vado a salutare il primo ospite che oggi ci aiuterà ad affrontare un tema che in questi giorni trova grande spazio sui giornali, sui social, nelle trasmissioni TV e quindi anche nelle discussioni in famiglia: la necessità di individuare i pazienti asintomatici che sono a loro insaputa una fonte di contagio. Quindi la sfida consiste nell'individuare il più alto numero in breve tempo possibile. Come fare? In linea con noi abbiamo il professor Arnaldo Caruso, che è ordinario all'Università di Brescia e presidente della Società Italiana di Virologia. Professore, buongiorno. Grazie. Buongiorno, dottoressa. Allora, professor Caruso, noi abbiamo due strade oggi a disposizione per intercettare i pazienti asintomatici: effettuare tamponi, magari allargando i criteri di selezione, o andare a ricercare nel sangue, attraverso un prelievo, la presenza degli anticorpi contro il virus. Insomma, professor Caruso, mi verrebbe da dire tampone verso prelievo. Ci aiuta un po' a capire la differenza tra queste due metodiche, quindi punti di forza e criticità di ciascuno. Partirei dal tampone, se lei è d'accordo. Ecco, d'accordo. Allora, il tampone intanto preleva del materiale dal tratto naso-faringio, quindi un tampone che si fa nella narice o in gola. Sì. E questo vede la presenza di acido nucleico del virus, quindi significa che io vado a vedere se c'è il codice genetico del virus con una tecnica particolare di tipo molecolare. Questo cosa mi dice? Che se il virus è presente e il soggetto è stato, come dire, è venuto a contatto con questo virus, ma non dice nulla sulla sua, sul suo stato di infezione. Per intenderci, una particella di virus morto, quindi inattivato, potrebbe essere casualmente nella narice di un paziente e questo non avere assolutamente nessun tipo di infezione. Siccome il test è molto sensibile, succede che noi possiamo dare positivo a una persona che in quel momento non lo è affatto, perché non è stato infettato. Quindi quello che noi facciamo è una diagnosi di presunzione, cioè una diagnosi presuntiva. Se c'è il codice genetico, presumiamo che il paziente sia stato infettato, il che non è detto che sia sempre così. Mentre per il test sierologico invece... Aspetti un secondo, prof, sì. Volevo chiederle anche una cosa, ma questi tamponi che danno risultati in tempi più brevi, perché anche sui tamponi si è discusso anche sulla necessità di avere risposte più veloci, sì. Quali vantaggi offrono, oltre naturalmente al risparmio di tempo, e per quali pazienti sono indicati, considerando le caratteristiche che lei ci ha detto e come funzionano i tamponi, a quelli che sono ricoverati oppure per... verificare la guarigione, professore? Guardi, è più facile dire che i tamponi vanno bene, specialmente nei pazienti sintomatici, per essere sicuri che l'infezione è in atto. Certo. E laddove il paziente non è sintomatico, è come avere una istantanea, una foto istantanea. In quel momento il virus c'è o non c'è in quel distretto? Potremmo avere delle persone infette che non hanno in quel momento una grande presenza del virus a livello del nasofaringe, o addirittura avere delle persone completamente negative che invece in quel momento, per puro caso, si sono contaminate con qualcosa di infetto, ma che non vuol dire sia necessariamente un'infezione. Quindi il test molecolare è un'istantanea che ci dice se siamo fortunati che il virus c'è, ma se non ci fosse sarebbe un po' un problema capire se il paziente non lo ha oggi ma lo avrà domani infettandosi. Certo. Quindi lei ha detto un'istantanea, quindi. Un'istantanea. Andiamo invece all'esame del sangue, esame sierologico, un semplice prelievo, letto addirittura una goccettina di sangue, una puntolina in un dito. Esatto, ora sono disponibili questi test che rendono, non dico superflui i test molecolari che hanno il loro significato, ma li rendono meno appetibili per un'indagine su larghi numeri. Cosa significa? Che se il virus è veramente stato in grado di infettare la persona, è andato nel polmone e ancora in fase del tutto asintomatica, si è portato nel sangue, ha generato una risposta anticorpale, cioè la nostra risposta che poi ci proteggerà in futuro, gli anticorpi. E allora in base alla presenza degli anticorpi noi possiamo assolutamente asserire che l'infezione è avvenuta, è reale, quindi è diagnosi di certezza, non più di presunzione, ma di certezza. E a questo punto abbiamo due classi di anticorpi, i primi che compaiono subito perché il virus è pandemico, nessuno di noi l'ha mai visto prima, sono di classe IgM e durante la fase di incubazione già vengono fuori dicendo che il paziente, sebbene asintomatico, è già infetto. Poi via via arriveranno a svilupparsi quelli che ci proteggeranno come classi anticorpali, cioè le IgG, e a quel punto quelli saranno per sempre con noi come anticorpi che ci proteggeranno anche in futuro. Quindi la presenza in un test sierologico sia di diagnosticare la presenza di IgM che di IgG ci dice quanto il paziente ha avuto l'infezione, se è recente, in atto, oppure se è passata e quindi risolta. Professore, da quanto lei mi racconta mi sembra di trovare forti similitudini, parlando dell'esame sierologico, con il test per l'HIV, ma anche con quello per la gravidanza che molte donne fanno a casa per poi verificare successivamente. Corretto, professore? Esatto, basterebbe una piccola quantità di sangue, anche puntura dei polpastrelli, per poter fare questo test, che non è più un test che necessita di laboratori sofisticati e complessi di biologia molecolare come oggi col tampone nasale, nasofaringeo, ma può essere fatto da chiunque, un domani non escludo che possa essere anche venduto nelle farmacie. Nelle farmacie. Professore, quanto ai tempi, quando queste due metodiche, parlo dell'esame sierologico ma anche parlo dei tamponi molto rapidi, entreranno proprio nella pratica clinica? Si stanno facendo? Entrambi sono già pronti per entrare nella pratica clinica. Direi che i tamponi possono essere in questo momento ancora utilizzati specialmente nelle aree di piccola diffusione, quindi quei focolai che ancora vediamo crescere ad esempio nel centro-sud Italia, laddove è possibile individuare in fretta, sebbene con metodiche molto complesse come quelle molecolari, certo, la presenza di portatori sani. Certamente l'avvento dei test sierologici renderà molto più semplice alla portata di tutti questo, e la possibilità anche di identificare con più velocità. Un test sierologico prende non più di 15-20 minuti per avere il risultato, può portare a una conoscenza molto più rapida e diffusa della situazione in quei focolai di sieropositività, cioè di vera infezione, isolando i pazienti per tempo, e questo possibile farlo da parte di tutti. Speriamo, professore, grazie, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Buongiorno. Intanto io vi ricordo i numeri per intervenire, 349-238-6666, stanno arrivando molti messaggi anche WhatsApp, vocali. Intanto stavo considerando, ma lo facciamo abitualmente, che anche in tempi di emergenza Covid-19 fioriscono e si moltiplicano le fake. Il nostro obiettivo alla domenica, sapete, alla bufala in tavola, è andare un po' a smascherare le bufale, le fake nel campo dell'alimentazione. Naturalmente lo facciamo anche per l'emergenza Covid-19. E il nostro acchiappa bufale oggi è il professor Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore scientifico di Osservatorio Influenza, ricercatore all'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi. Detto in sintesi, uno dei nostri influenzologi preferiti, come la chiamavo io in tempi quando non c'era il Covid-19. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti, eccoci qua. Professor Pregliasco, in questi giorni circola un alert che sembra provenga dall'ospedale Galeazzi, di cui lei è tra l'altro direttore sanitario. A diffonderlo sarebbe un suo collega che, come abbiamo verificato attraverso l'ufficio stampa dell'ospedale, ha decisamente negato l'attribuzione. Riguarda il consumo di alcuni farmaci di antinfiammatori, descritto appunto in questo alert, non utilizzati utilizzate gli antinfiammatori, professor Pregliasco, perché in caso di Covid-19 potreste rischiarla grossa. Questo è in sintesi, in modo molto certo, il messaggio che arriva da questa. Come la etichettiamo? Fake o non fake? Un bel esempio di fake, perché il professor Walter Pascale è un ottimo ortopedico, si occupa di protesi, ha un nome notevole, ma mai si è interessato di aspetti riguardanti il Covid, e ieri mi ha informato di questa aggregazione fra l'Istituto Galeazzi, quindi una costruzione, ecco, mi viene da ridere, una costruzione di una fake ad arte, no? Perché si sa che sono direttore sanitario del Galeazzi, e quindi no, è stata creata, come spesso accade, accadono queste fake, aspetti, diciamo così, simili verità che poi vengono amplificate. Quindi, professore, la smascheri, se vi arriva sulla vostra chat l'indicazione che, professore, passo a lei la parola con chiarezza, così allora, lo dice lei. Ad oggi non c'è nessuna evidenza che alcuni tipi di farmaci antinfiammatori possano peggiorare l'andamento clinico della malattia. Sono state anche fatte delle segnalazioni in alcune ricerche riprese dalla stampa in parte, ma sicuramente ad oggi non c'è nessun problema. Bisogna approcciare queste forme più semplici con farmaci da banco sintomatici per ridurre la febbre. E la stessa cosa si aggiunge a un'altra fake riguardante gli ACE inibitori, farmaci che tantissimi ipertesi io stesso assumo, e che anche qui era emerso come potessero peggiorare le condizioni cliniche. La Società Italiana di ipertensione arteriosa ha ribadito nessuna evidenza, o addirittura l'evidenza che invece sartani, altri farmaci principi attivi per sempre la cura dell'ipertensione, fossero invece facilitanti e favorenti, diciamo, una prevenzione. Davvero, ecco, abbiamo fatto una carrellata. Professore, prima di andare alle informazioni sul traffico, una domanda di Delia, che vuole sapere se la mascherina si usa più volte o va gettata dopo il primo uso. Le aggiungo anche le domande di Marco, di Stefania, che ci scrivono invece se possono essere disinfettate utilizzando soluzioni varie, insomma non inzuppandola naturalmente nel liquido. Professore, devo dare la linea. Lei si prepari e subito dopo il professor Pregliasco con noi. A tra poco. Obiettivo salute. Professor Pregliasco, mascherine, le uso e le butto, le uso e le disinfetto, dove le ripongo? Un mini tutorial. A Cipicchia, le mascherine hanno, soprattutto quelle filtranti, l'FP2 e l'FP3, una durata di 6-8 ore. Le mascherine chirurgiche dopo un po' si impregnano anche di saliva. Emergono anche da parte di alcuni la possibilità, insomma, di un riutilizzo, ma attenzione, io lo vedo come estrema ratio in questo momento in cui mancano i dispositivi di protezione individuale. Messaggio è: andrebbero buttate dopo l'uso. Se proprio siamo in ristrettezze, attenzione ovviamente come le si manipola, un passaggio con un disinfettante, lasciare diciamo agire per alcune ore e riutilizzarle, però verificando col buon senso le condizioni. Professore, Massimo ci ha scritto una mail: a breve finisco l'autoquarantena, 14 giorni, senza sintomi, nemmeno raffreddore o tosse. Posso passare ad aiutare un parente che ha fatto quarantena, anche lui senza nessun sintomo, o rischiamo qualcosa? È sempre difficile sapere se il soggetto è stato positivo o asintomatico, è una questione che ormai si dibatte da tempo. Ad oggi però se non ci sono stati sintomi, se il soggetto è stato in buona salute ed è stato solo un contatto di un caso indice, direi che può agire. Andare con attenzione, con magari attenzione, con la distanza, la mascherina e quant'altro. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata. È stato anche il nostro un po' acchiappabufale. Grazie professor Pregliasco. Passo la parola alla professoressa Paola Cinque. Buongiorno professoressa dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Istituto Scientifico San Raffaele, socia della CIMIT. Professoressa Cinque, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, noi abbiamo smascherato una bufala. Adesso vorrei chiederle se ci aiuta a leggere un'agenzia che viene battuta in queste ore di un infettivologo dell'Istituto Mediterraneo di Marsiglia che ha fatto uno studio clinico, professoressa Cinque, lei ha letto lo studio, utilizzando un farmaco che viene utilizzato solitamente come con la malaria. È stato ripreso da alcuni giornali. Ci aiuta a leggere dentro la notizia? Sì, proviamoci. Dunque, la clorochina e la idrossiclorochina a cui si fa riferimento, che poi è il Plaquenil, sono farmaci antimalarici che sono stati riscoperti in occasione di questa malattia del Covid-19, in base al fatto che hanno una attività in vitro sulla vitalità del virus, cioè le colture vengono infettate con il virus, poi quindi viene dato questo farmaco, il virus smette di crescere. Sì. Il punto è che questa notizia, credo, da quanto ho capito, che sia stata comunicata a voce da questo nostro collega francese, però non ci sono ancora dati sui dettagli, ma la cosa più importante di tutto è che comunque questo farmaco noi in Italia e in molte parti del resto del mondo lo stiamo già utilizzando fin dai primi casi, quindi da 4 settimane dall'inizio dell'epidemia, perlomeno in Italia. Ecco, quindi sembra che la notizia non ci sia al momento. Insomma, io in questo momento tenderei a leggerlo in questo modo. Fra l'altro viene utilizzato non in modo così a caso, ma è proprio parte dell'armamentario di farmaci che funzionano, certo, non funzionano, ma vengono date subito secondo anche le linee guida della CIMIT. Perfetto, quindi devo dire, la mettiamo lì da parte, poi vediamo. Lo stiamo comunque utilizzando, sicuramente non è il farmaco miracoloso alla luce dei dati che abbiamo, però lo stiamo già utilizzando da parecchio tempo. Professoressa Cinque, grazie, noi ci sentiamo presto. Arrivederci. E allora, e noi continuiamo a parlare dell'emergenza Covid-19, perché per alcune persone è un problema dentro un problema. Penso alle persone che convivono con una malattia cronica o che seguono terapie che abbassano le difese immunitarie. Il gruppo più vasto in ambito neurologico è costituito dai pazienti affetti da sclerosi multipla e credo che in questo momento abbiano bisogno di indicazioni, consigli, supporto. In linea con noi per questo abbiamo il professor Giancarlo Comi. Buongiorno professore. Sì, buongiorno Nicoletta. Direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale del San Raffaele di Milano. Professore, allora, apriamo questa, ecco, una comunicazione. Sappiamo che la sclerosi multipla colpisce in prevalenza i giovani. Professore, in questo stato di emergenza che cosa avete fatto? Beh, innanzitutto chiaramente chi è affetto da malattie croniche di qualsiasi tipo ha chiaramente una fragilità superiore. A questo si aggiunge il fatto che la maggior parte dei pazienti con sclerosi multipla, per fortuna, è trattabile con dei farmaci che hanno un'azione sul sistema immunitario. La maggior parte di questi hanno un'azione di riduzione dell'efficienza del sistema, che è quello che funziona troppo e quindi in questo modo è responsabile in qualche modo della malattia. Quindi queste persone hanno più rischi, innanzitutto, quindi è importante che si proteggano con un'attenzione anche maggiore di quella che si dedica a qualcuno che non ha questo aumento di rischi, e poi è fondamentale che riceva una serie di indicazioni di comportamento. A questo fine proprio c'è stato un documento che è stato elaborato inizialmente a livello mondiale dalla federazione che raggruppa tutte le associazioni di malattie per sclerosi multipla e poi fatto proprio nel nostro paese dalla collaborazione tra AISM e la Società Italiana di Neurologia. Sì. Questo documento dà alle persone affette da sclerosi multipla, ma anche ai loro caregivers, ai loro familiari, una serie di indicazioni su come comportarsi e ovviamente, come dicevo prima, la prima raccomandazione è che stiano ben chiusi nelle loro abitazioni, non si espongano a rischi, solo in casi eccezionali devono andare al centro di riferimento, perché chiaramente in questo momento l'ospedale non è il posto più sicuro, certo, come protezione dall'infezione. Se devono iniziare dei nuovi trattamenti, è bene che si indirizzino verso trattamenti che non bloccano la funzionalità del sistema immunitario, che già deve essere pronto a combattere la battaglia contro questo maledetto virus. Se noi gli leghiamo le mani, è chiaro che la battaglia diventa un pochino più complicata, è più difficile. E oltretutto anche queste persone purtroppo qualche volta hanno già delle disabilità anche importanti, che a loro volta possono influenzare molto la risposta a una eventuale infezione. E queste persone molto spesso, ad esempio, fanno fisioterapia. Una domanda comune che noi riceviamo è: cosa faccio? La smetto? La continuo? La raccomandazione che questo documento ha emesso è che in realtà in questa fase solo quelli che sono ricoverati in centri specifici per riabilitazione intensiva possono proseguire questo tipo di trattamento. Per gli altri è meglio sospenderlo, almeno fino a che non avremo informazioni più precise, perché ovviamente è un rischio. Diventa un problema, certo, muoversi da casa per andare al centro è un rischio, poi al centro di riabilitazione ovviamente si entra in contatto con altre persone, quindi il rischio si moltiplica. Speriamo tutti che sia un fatto transitorio, insomma, sì, ce la faremo, però è importante. Io la ringrazio, professor Comi, per essere stato con noi e per aver aggiornato sulla situazione. Io la ringrazio, le auguro una buona giornata. La nostra pagina Facebook, professor Comi, è a disposizione, quindi per link, approfondimenti e quant'altro noi ci mettiamo a vostra disposizione sempre. Grazie professore. Buona giornata. Allora, intanto abbiamo il nostro medicuoco quasi cuoco che è ai fornelli. Che cosa sta facendo, dottore Zegovesi? Buongiorno. Pronto, buongiorno Nicoletta. E oggi che cosa ci portiamo a tavola per restare gagliardi? E oggi sistema immunitario gagliardissimo con un hummus di ceci, quindi una crema di ceci della tradizione medio orientale, per cui rispetto ai nostri palati un po' schizzinosetti di italiani o milanesi, molto più ricco di aglio e molto più ricco di spezie. L'aglio che tra l'altro ha il suo perché, come verrebbe da dire, no? Soprattutto in questo momento in cui la distanza sociale è fondamentale, oltre a restare a casa, prima regola assoluta, e l'aglio devo dire che aiuta. Assolutamente, eh? Facciamo in modo che più di un metro intorno a noi l'aglio ce ne garantisce almeno un metro e mezzo, quindi esageriamo rispetto al classico spicchietto d'aglio. Ecco, andiamo giù di aglio. Che si mette in un hummus, 500 grammi di ceci cotti al posto del solito spicchietto d'aglio crudo, ce ne mettiamo 4 o 5 di spicchi belli grandi. E la ricetta la trovate come sempre sulla pagina di Obiettivo Salute. Dottor Zegovesi, grazie. Grazie a voi, grazie, e buona giornata. Un abbraccio da lontano. Oltre alle ricette del nostro medicuoco quasi cuoco, io vi ricordo le iniziative speciali sulla pagina Facebook. Io resto a casa e scrivo favole con Anna Lavatelli. Ieri abbiamo postato la favola a cavallo con il callo, a cui tra l'altro vi ricordo dovete dare la conclusione, questo spetta a voi. Poi abbiamo Io resto a casa in equilibrio con le videopillole della dottoressa Maria Giovanna Luini. Dopo aver usato l'immaginazione, oggi ci impegniamo a costruire il nostro angolo di casa. Volete saperne di più? Andate a vedere il video. E poi Io resto a casa con Alberto e Alberto Pellai, con noi il consiglio di benessere emotivo che oggi ci ha fornito Alberto Pellai, un bellissimo romanzo che si svolge in Giappone, dove c'è una cabina del telefono che mette in comunicazione persone che non si possono più incontrare, un po' una metafora dei nostri tempi in cui vige la regola del distanziamento. E poi le immagini oltre le parole, con le foto del nostro Luigi Sutera, il poeta dello specchio che ci aiuta a vivere il mondo da un'altra prospettiva. A domani.